Capitolo primo. Preistoria. Scrivere significa non rinviare più al futuro la morte, sempre già passata, ma accettare di subirla senza renderla presente e senza rendersi presenti ad essa. Sapere che per quanto non sia stata provata, ha avuto luogo. E riconoscersela nell'oblio che lascia dietro di sé. Essere in relazione con ciò di cui non ci si può ricordare. Testimone del non provato. Blanchot, la scrittura del disastro. La preistoria di mamma, bambina di 3 anni sotto l'occupazione nazista, diventa la mia stessa preistoria. Una memoria che oltrepassa qualsiasi limite temporale, che non ha bisogno di essere ricordata né conosciuta, perché è identica alla certezza di un'angoscia ancestrale che da sempre, come un latte avvelenato, ha minacciosamente nutrito la mia stessa nascita. Se loro non si fossero salvati. Ogni qualvolta nel dopoguerra da bambina leggevo e rileggevo il libro di papà, così chiamavo il suo diario, scoprivo quasi ex novo dettagli essenziali di quella che posso chiamare la mia preistoria. In realtà ne conoscevo bene la successione e mi emozionavo ogni qualvolta potevo collocarli nello spazio reale, come se li estraessi da un contenitore esclusivamente mentale. Il confronto con quella storia e con quella memoria, con tutte le loro personificazioni simboliche proliferate all'interno della mia mente, non poteva più essere rimandato. Era necessario per me, come per mamma, estrarle da un contenitore esclusivamente mentale e riportarle alla loro storia. Il mio ricordo di questi racconti risale proprio al mito, alla preistoria. Mi sembra che da sempre, da quando prendevo il latte, da quando sono nata, c'era questo racconto. Improvvisamente mia mamma piangeva e raccontava che si era nascosta. E tutte le volte che penso alle persecuzioni, alla Shoah, al periodo nazifascista, l'associazione immediata è a mia madre più che a mio padre, a mia mamma e a una bambina che in realtà sono io, e di cui però in realtà so pochissimo, quasi niente. In realtà mia mamma mi ha sempre raccontato molto e ogni volta che raccontava piangeva. E io devo dire che a ripensarci vivevo molto male questi momenti, che però, ripeto, non ricordo dei momenti specifici. Non potevo c'era come un capovolgimento di ruoli. Ero piccolissima quando mamma ci raccontava a me e mia sorella queste cose. Poi mia mamma è sempre stata una bravissima narratrice. Ci raccontava delle favole bellissime, divertentissime, che improvvisava, e anche buffe di personaggi, spesso bambine buffe che facevano disastri e molto avvincenti. E però improvvisamente invece c'era quest'altra storia terribile di quest'altra bambina che si doveva nascondere dai nazisti. Non c'era una volontà, quando mamma raccontava delle persecuzioni, cioè non c'era un progetto di trasmissione. E l'identificazione totale che provo con quella bambina e anche le emozioni che provo derivano dal fatto che improvvisamente mia mamma era come se diventasse succube di questi ruoli, di questi ricordi, cioè non poteva in qualche modo controllarli, era un'emozione fortissima che le veniva per associazioni di idee o non lo so perché. E in quei momenti, se ci penso ora, mi sembra che provassi un grande disagio e anche un senso di pudore, come se ci fosse un ribaltamento di ruoli, come se mi trovassi di fronte non più la mamma protettiva, adulta, rassicurante, ma una bambina che piange. Cioè la bambina stessa che aveva vissuto quelle cose. Sogno. I nazisti mi vengono a deportare. I nazisti mi vengono a deportare. La saracinesca di un garage. La saracinesca di un garage. Si alza all'improvviso con un fragore tremendo. Un fragore tremendo. E compare un omone viscido. Un omone viscido. Pelato. Con grossi pelato, stivaloni con neri. Grossi stivaloni neri. Ride in modo ride, volgare. Modo volgare. Perfido e assordante. La sua risata mi rimbomba nelle orecchie. Insieme all'eco del fragore della insieme saracinesca. Insieme all'eco del fragore della saracinesca. Fa degli ammiccamenti. Ho paura, voglio violentarmi. Voglio violentarmi. È il dittatore. Devo lasciare immediatamente la mia casa. So che sarà per sempre. Senso di panico, devo sbrigarmi. Non ho tempo di salutare familiari e senso amici. Non ho tempo di pensare a che cosa portare via. Non ho tempo di Nulla salutare mi sembra più indispensabile. Amici. Eppure mi sento legata a tutto. Mi sembra terribile dover andare via così, a mani vuote. Istintivamente afferro i libri di filosofia, tra cui la critica del giudizio di Kant. Il bello è il simbolo del bene morale. Kant, critica del giudizio. Invece adesso mi viene in mente qualche anno fa mia nonna, che pure è ancora viva, è l'unica nonna che ho e compie adesso 101 anni. Gli altri nonni sono tutti morti, che pure non è mai capitato né che lei raccontasse né che io chiedessi. E invece non so come è venuto fuori, però a un certo punto mi ha raccontato un episodio molto, molto bello, molto forte. Mi sembra che appunto... Non so se già nel periodo dell'occupazione nazista o prima, dopo le leggi razziali. Comunque mia nonna si era rivolta ad un amico di famiglia per chiedere aiuto. Non so se economico, per i documenti falsi o per... Non me lo ricordo. Bisogna che quando capita glielo richiedo. E questo signore commentò... Ma signora, ma lei di che cosa si preoccupa che è così bella? Era... Molto forte il modo in cui lo raccontava mia nonna e anche appunto mi ha colpito come lasciasse implicito quello che va lasciato implicito. Mia nonna era una donna molto bella e la bellezza nella famiglia di mio padre è sempre stata una componente molto importante, quasi con una sua eticità. C'era mio nonno, che appunto era un architetto, un artista, pittore, anche un personaggio molto particolare, che era un maniaco della bellezza. La bellezza di sua moglie, la bellezza della casa, degli oggetti che lo circonda. Si circondava di oggetti belli. E, è una cosa che... è come se questo senso della bellezza di mio nonno e di mia nonna diventasse un po' un imperativo etico. Una sorta di... non solo una cosa estetica, superficiale, ma una cosa di grande vitalità, di grande... Per cui, ripensandoci in quest'ottica, è come se questo signore avesse proprio profanato qualcosa. Cioè, una bellezza che era così importante, che era un valore, la faceva diventare qualcosa proprio di... Innanzitutto di inutile. Perché, purtroppo, neanche quello serviva a salvare gli ebrei, né dalle persecuzioni, né... E poi proprio di pornografico, di volgare. Capitolo secondo. Memorie del come se. In ogni generazione ognuno deve considerare come se egli stesso fosse uscito dalla schiavitù in Egitto. A Gadà di Pesach. Mi hanno raccontato cose sconvolgenti, come se fossero all'ordine del giorno. Come se l'avessi vissuto io direttamente. Cioè, quasi come se in culla mi avessero detto tu sei questo, è successo questo a noi, al popolo ebraico. Come se... Noi siamo questi. Guarda. Era... Quello nel campo di concentramento di te. Come se si cercasse in tutti i modi di cancellare questo periodo. Più ci penso e penso che abbiamo parlato pochissimo. Come se è una cosa che alleggia nell'aria, però poi di fatto non se ne parla. Non dico che io l'ho vissuto in prima persona, però in termini emotivi posso dire che È come se l'avessi vissuto in mio prima padre, persona. Mio padre è un tipo strano, per cui magari, voglio dire, lui parla di una cosa come se la dovessimo sapere. E poi in qualche modo dice: ma come? Per me, bambino, è... Non ve l'ho mai raccontato? Come se mi ci fossi trovato io. No. Non è che uno sta a dire, sì, ma io sono io. Mia madre è mia madre. Sono cose, credo che mi sbaglierò, però non lo so. Come dire? È come se io stessi sempre lì come spettatore di un male assoluto. E per quanto tu ti immagini quello che puoi provare, comunque non è come provarlo direttamente. Paradossalmente di fronte è peggio immaginarselo che ad non un provarlo. Ex deportato. Di fronte a un ex deportato io profondo rispetto. Come se fossi di fronte a una persona importante. Di fronte a una persona importante. Non lo so perché. Cioè, lo so perché. Io cioè, non perché, riesco ad esprimere la parola. Come una persona. Una persona. Oddio. È vivo. Se lo tocco. Non è che casca per terra, se lo tocco. Come una persona fragile. Che sta lì adesso. Che sta lì adesso. Non c'è più. Come se ci fosse sempre stato nell'ambito della mia famiglia. Questo. Io, malgrado sia una persona curiosissima, io non l'ho mai spinta a parlare più di quello che lei volesse, di quello che lei desiderasse. Perché mi rendevo conto che era come se ad un certo punto la voce si bloccasse. Tutto quello che appunto posso dire, l'ho sempre sentita come se fossi stato talmente, io ad Auschwitz. Talmente sono cresciuto con queste cose. Mi sento, come posso dire, io che ho faccio portato parte il peso. Purtroppo sì. Della Shoah. Io ho portato il peso di questo. Ho passato anni della mia vita in cui sono arrivata anche ad odiare mia madre per i suoi silenzi. Sentivo che comunque c'era un anello che mancava. Questa rabbia che poi mi si è scatenata dentro, in qualche modo mi ha anche costretta a guardare esattamente come stavano le cose. E nel momento in cui è iniziata la ricerca di questo, c'è stata tanta vergogna, c'è stato tanti sensi di colpa per non aver capito, non aver compreso, che comunque io vedevo mia madre come se fosse qualcosa da non toccare. Qualcosa di prezioso, sì, però al tempo stesso che non te la rendono umana. Ci sono molte cose scritte da mia madre che adesso io non riesco a leggere. Come se sapessi già come? Troppo. È come se avessi preso proprio tutti i pezzi della mia esistenza, li avessi guardati ad uno prima di metterli al loro posto. È stato un lavoro faticosissimo. Ho dovuto tirare fuori anche quella sorta, perché poi non è mai stato odio. In quel momento mi sembrava odio nei confronti di mia madre. L'ho dovuto tirare fuori come se avessi dovuto tirare fuori un cancro. Probabilmente se avessi lo avessi ormai viscerato completamente. Quindi ho poco d'altro da imparare. Ormai è una cosa nota. Ho sempre avuto la sensazione che quando si parlava con loro dei tempi della guerra, non ho mai avuto la sensazione che si stesse parlando di una cosa grave, pesante, terribile. Parlavano di quando loro si erano sposati. Parlavano di quando loro si erano sposati. Cosa riuscivano a preparare con le poche cose che riuscivano a trovare da mangiare. Di come lavoravano. Di quando scappavano. Così, come se stessero facendo un racconto. Sì, sulla loro giovinezza, capito? Come se loro avessero rielaborato delle cose orribili. Per farle rimanere nella loro memoria come momenti carini. Come momenti carini, capito? Capito. Nonna raccontava con tale naturalezza. Come se avesse fatto la cosa più normale dell'universo. C'è questa sorta di frustrazione che sempre mi capita quando affronto questi discorsi che, per quanto uno possa analizzare nei dettagli, nelle sfumature, parlare di questa cosa, quello che dici è sempre insufficiente rispetto non proprio alla portata dell'evento, ma proprio anche a come io ce l'ho dentro questa cosa. Come, non so se ti dovessi, anche proprio rispetto al dolore, per che comunque c'è questo dolore, che c'è sempre stato, che comunque rimane, si rinnova e non passerà mai. Come se, insomma, come se io o tu mi avessi chiesto quanto soffri per la Shoah. Io dentro di me ho questa idea che soffro 10, però la risposta, proprio la mia risposta è... Io soffro 4. Dopo che mia madre ha avuto l'ictus, ha iniziato a parlare, voleva parlare. È come se vedessi in lei la voglia di rinascere. Perché queste persone che sono tornate dai campi sono rimaste lì. Non sono più tornate. sono rimaste ferme in qualche modo, bloccate da tutto quello che è successo lì dentro. Cioè, io non mi ricordo un abbraccio di mia madre, un bacio, se non dopo che ha avuto quest'ictus, come se gli si fosse risvegliata un'altra parte del cervello. Lì ho ritrovato mia madre, ho riscoperto mia madre. Non voglio fare luoghi comuni e frasi tipiche, però qua se gli americani... Tra l'altro io nella mia storia familiare ho un immaginario. Perché mia madre, proprio mi racconta, sia mia madre che mia nonna, l'unico momento felice dei loro racconti sono l'arrivo degli americani. Mi hanno raccontato cose sconvolgenti come se fossero all'ordine del giorno. Cioè, io ancora ho a casa delle coperte, gelosamente, che mia nonna, che gli avevano dato gli americani. Cioè, perché stavano lì, buttati in una stanza e gli avevano dato le coperte. Potrà sembrare strano. Mia nonna... Cioè, questa idea dentro sembra di me. Come se... Idea dentro di me. Gli avessero... Come se fosse un... Potrà... L'avessero sembrare strano. Sì. Potrà sembrare strano, è come... Potrà essere ritenuto strano. Fosse... Come... Cioè, questa idea dentro di me. Come se fosse un cancro. Faccio una sorta di digiuno della parola. Non partecipo. Non parlo. Ad Auschwitz fosse quella di chi ha saltato un pasto, o come se la fuga da Treblinka fosse assimilabile alla fuga da Regina Celi. Levi, i sommersi e i salvati. Capitolo terzo. La ribalta. Un certo giorno, era un kiddush, un venerdì sera, lui, papà, torna a casa dicendo... E lui mi ha raccontato questa storia, il che non ci sarebbe niente di male se non fosse che di sua sorella, né a me, né a mia sorella, né a mio fratello, lui ha mai parlato. Ma proprio mai. La sorellina... di mio padre è stata deportata dalla casa accanto a questa il 16 ottobre del 43 e il mio nonno paterno Guglielmo che si chiama come mio fratello che è nato lo stesso giorno in cui era nato mio nonno è stato deportato poi a febbraio dopo una delazione La sorellina, la sera del 15 ottobre, va a dormire dai nonni. All'alba del 16 ottobre arriva. C'è la grande razzia degli ebrei di Roma. Le SS arrivano anche in viale Mazzini 52. E quindi vennero portati via da... il 16 ottobre del 43, la mia bisnonna e uno zio scapolo che viveva ancora a casa con la madre e la nipotina e ma lei aveva 8 anni. Allora io l'ho saputo origliando da ragazzina una conversazione di mia madre con una sua amica, non ho detto niente, c'era un mobile che si chiama ribalta, è un mobile dell'Ottocento, una cosa così, che era il mobile di mia madre, dove mia madre teneva le sue carte, le sue cose, eccetera, e dove a noi era assolutamente proibito mettere le mani, cioè era proprio una cosa vietatissima. Io chiaramente a un certo punto ci misi le mani e vidi una fotografia dove si vedeva un signore e 3 bambini. Allora, uno era mio padre, era evidente, l'altro era mio zio ed era altrettanto evidente, l'altro era mio nonno. Anche se io non avevo mai visto foto, era di tutta evidenza che quel, insomma così. E questa bimbetta, che diavolo era? Da dove veniva fuori? Io non ne avevo mai sentito parlare. Dopodiché, siccome avevo scoperto questa fotografia facendo questa violazione tremenda, che era di andare a mettere le mani in questo mobile, e non potevo mica andare lì a chiedere spiegazioni, no? Finché, ma alcuni anni dopo, potevano essere 3, 4, 5, mia madre stava parlando con una sua amica al mare, mi ricordo, stavano a pochi metri da me. Bene, appizzai le orecchie e venne fuori questo discorso di questa sorella di papà che... e che quindi questa amica di... lei la conosceva. Loro parlavano di questa cosa come 2 persone che sapevano di cosa stavano parlando. Io assolutamente no. E il fatto è che io a questo punto ho capito chi era questa bimba così dalla fotografia. Capitolo quarto. Oltre il ponte. Avevo bisogno di compagnia per guardare dentro la scatola di ferro. Altre voci che mi confermassero che le cose che mi portavo dentro erano reali, che non me le ero create io. Dovevano esserci altre persone che come me condividevano questa mia situazione, che avevano la loro versione della mia scatola di ferro e come me erano ossessionati da una storia che non avevano vissuto. Epstein, figli dell'olocausto. Come se mi trovassi di fronte non più la mamma, protettiva, adulta, rassicurante, ma una bambina che piange, cioè la bambina stessa che aveva vissuto quelle cose e con la quale poi immediatamente scattava un senso di identificazione. Non so perché, ma questo senso di... ora mi viene da dire di fastidio che provavo, mi viene da associarlo a quando da piccola stavamo in macchina, io, mia mamma e mia sorella, e spesso loro si mettevano a cantare l'opera ai semafori col finestrino aperto e io mi vergognavo da morire e mi irritavo, tant'è vero che per anni ho odiato l'opera e il canto, anche se poi invece negli ultimi anni ho cominciato ad amarlo molto, tant'è vero che anch'io poi ho studiato canto. Non lo so perché. Mi viene... e c'è come qualcosa di simile nelle due sensazioni. E, un senso di vergogna, di ribaltamento di ruoli, di pudore, di... Però ecco, sicuramente a un certo punto della mia vita, non mi ricordo, non so dire quando, ho scoperto che ogni volta che pensavo ai nazisti, alle persecuzioni, alla Shoah, dovevo fare un salto logico e dirmi che non ero io la bambina che era stata perseguitata, che si era dovuta nascondere, eccetera, eccetera, ma era mia mamma. Tutta la fine di questa storia è che i nostri genitori, i nostri nonni, purtroppo nelle famiglie dove sono state toccate di più e ci lasciano. E, come la vedo io, un pochino con, diciamo, dei problemi, un po'... Come posso spiegare? Dei problemi, ma no perché ci sentiamo inferiori. Però questo timore, questa paura, questa... Che in fondo nella nostra mente, sì, l'accantoniamo, però esiste. Perché ce l'hanno trasmessa, hai capito? Cioè, solo i racconti che senti dai genitori, dai nonni, il vedere triste mia nonna, vederla sempre leggere le lettere, le ultime lettere che gli mandò il figlio da Regina Celi, e gli scriveva le canzoni. Mamma, son tanto felice che io ritorni da te. E scriveva così. Non ti preoccupare, mamma, io ritornerò. Cioè, io, che dato che un periodo della mia vita l'ho vissuta con mia nonna, io di nascosto prendevo queste lettere, perché lei tutte le sere se le leggeva, e di nascosto me le leggevo. E tutte le lettere che le ha, le ultime lettere che gli ha mandato il figlio. Cioè, uno a 16 anni, uno è un bambino, specialmente un maschio, sei proprio adolescente, cioè ancora devi diventare uomo. Niente, io la vedevo tutte le sere che lei si leggeva queste lettere, cioè perché era il suo intimo, era una cosa sua, che apparteneva a lei, era suo figlio, le sue lettere di suo figlio, portato via senza motivo, senza, per 5.000 lire, cioè che è... E questa cosa, io ogni volta che ci penso, rabbrividisco. Come abbia potuto sopportare di vedersi portare via il figlio così? Cioè, rimango veramente addolorato ogni volta che ci penso, mi viene da piangere. Ma non tanto il pensiero di sapere come è morto, ma di tutte quelle lettere che diceva la mamma che sarebbe ritornato, di non piangere, di non preoccuparsi, che lui stava bene. Invece chissà cosa gli facevano. Prima poi di portarli a nei campi di sterminio. Oh, i racconti di mia madre. Ho avuto i racconti di mia nonna e mio nonno. Ci stavano anche questi prozii e quindi abbiamo anche i racconti loro. Io bambina e questi racconti c'erano. Ed erano presenti e... E poi li ho associati, non so, alle canzoni partigiane e alle canzoni comuniste, ai canti di liberazione. E con loro, le mie figlie, sto facendo forse lo stesso errore di mia madre, nel senso che gliel'ho raccontato in forma di nuovo di storia e di canzone. Faccio un po' quello che faceva mia madre con me, di raccontare storie e cantare canzoni. Cioè, uno racconta brevemente un episodio e poi dice... E allora cantavano questa canzone. E... Io sono arrivata all'Afjay e ho scoperto che le canzoni che mi cantavano i miei genitori, che pensavo le sapessi soltanto io, mia sorella, mio fratello, che erano le canzoni di Sergio Liberovici, del canzoniere italiano, io ero sicura, anche lì ero sicura che le sapevo soltanto io. E sono arrivata all'Afjay e all'improvviso ho scoperto che potevamo essere 20, in 30, in 50 a cantare quelle canzoni. Quindi c'è stato un elemento di rivelazione puro. L'antifascismo era una cosa molto, molto radicata. Secondo me era una cosa molto radicata perché era la faccia positiva della Shoah. Dove vola l'avvoltoio, avvoltoio, vola via dalla terra mia, che è la terra dell'amor. Un giorno nel mondo, finita fu l'ultima guerra, il cupo cannone si tacque, più non sparò, e privo del triste suo cibo dall'arida terra, un branco di neri avvoltoi si levò. L'avvoltoio andò dal fiume ed il fiume disse no, avvoltoio vola via, avvoltoio. io vola via nella limpida corrente. Ora scendo un carpe trote, non più i corpi dei soldati che la fanno insanguinar. Dove vola l'avvoltoio, vola via dalla terra mia, che è la terra dell'amor. L'avvoltoio andò dall'eco e anche l'eco disse no. Avvoltoio, vola via, sono i canti che io porto, sono i tonfi delle zappe, giro tondi e ninne nanne, non più il rombo del cannon. Dove vola l'avvoltoio, avvoltoio, vola via dalla terra mia, che è la terra dell'amor. L'avvoltoio andò ai tedeschi e i tedeschi disser no. Avvoltoio, vola via, non voglio mangiar più fango, odio e piombo nelle guerre, pane, case in terra altrui, non vogliamo più rubar. Dove vola l'avvoltoio, avvoltoio, vola via dalla terra mia, che è la terra dell'amor. L'avvoltoio andò alla madre, la madre disse no. Avvoltoio, vola via, avvoltoio, vola via, i miei figli li do solo a una bella fidanzata che li porti nel suo letto, non li mando da ammazzar. Dove vola l'avvoltoio, avvoltoio, vola via, vola via dalla terra mia, che è la terra dell'amor. L'avvoltoio andò all'uranio e l'uranio disse no. Avvoltoio, vola via, avvoltoio, vola via, la mia forza nucleare farà andare sulla luna, non deflagrerà infuocata distruggendo le città. Dove vola l'avvoltoio, avvoltoio, vola via dalla terra mia, che è la terra dell'amor. Ma chi delle guerre quel giorno aveva il rimpianto, in un luogo deserto a complotto si radunò e vide nel cielo arrivare girando quel branco e scendere, scendere, finché qualcuno gridò. Dove vola l'avvoltoio, avvoltoio, vola via dalla testa mia, ma il rapace li sbranò. Oh ragazza dalle guance di pesca, oh ragazza dalle guance d'aurora, io spero che a narrarti riesca la mia vita all'età che tu hai ora. Copri fuoco la truppa tedesca, la città dominava, siamo pronti, chi non vuole chinare la testa, con noi prenda la strada dei monti. Avevamo 20 anni ed oltre il ponte che in mano nemica, vedeva all'altra riva la vita, tutto il bene del mondo oltre il ponte, tutto il male avevamo di fronte, tutto il bene avevamo nel cuore. 20 anni la vita deliziosa sugli aghi di pino, su spinosi ricci di castagna, una squadra nel buio mattino discendeva l'oscura montagna, la speranza era nostra compagna, a saltar caposaldi nemici, conquistandoci l'armi in battaglia, scalzi e laceri eppure felici. Avevamo 20 anni ed oltre il ponte che mano nemica, vedeva l'altra riva la vita, tutto il bene del mondo oltre il ponte, tutto il male avevamo di fronte, tutto il bene avevamo nel cuore. Detto che fossimo santi, l'eroismo non è sovrumano, corri abbassati dai balza avanti, ogni passo che fai non è vano, vedevamo a portata di mano, oltre il fosso, il cespuglio, il canneto, l'avvenire di un mondo più umano e più giusto, più libero e lieto. Avevamo 'Famiglia hanno figli che non sanno la storia di ieri. Io son solo e passeggio fra i tigli con te cara che allora non c'eri. E vorrei che quei nostri pensieri, quelle nostre speranze d'allora, rivivessero in quel che tu eri, oh ragazza color dell'aurora.